questa sera è dedicata alla lotta No More che si sta sviluppando già da diverso tempo in Sicilia. Abbiamo pensato che era importante parlare della battaglia No More perché l'interesse per gli antiautoritari è in dubbio in questi ultimi anni, e le battaglie contro le ingiustizie di austerità come Occupy Indignato sta avendo delle caratteristiche di assemblarismo e di orizzontalità interessante. La lotta della NOTAV No More sta cercando di portare avanti dal basso e con l'azione diretta senza deleghe la propria lotta. Quella No More per noi ha una duplice importanza, perché sia una battaglia antimilitarista e sia contro le nocività, contro la devastazione ambientale. Niente, io non mi dilungo più di tanto, lascio la parola al compagno Pippo, che è da decenni impegnato nell'anarchismo siciliano, sia nell'ambito militante sia in quello della pubblicistica con Sicilia Libertà e le edizioni La Fiaccola. Niente, lascio a te la parola, Pippo. Grazie. Va bene, allora intanto grazie dell'invito, è stato un piacere e un onore venire qua da voi, per noi che siamo così lontani ma così vicini, e stasera parliamo del MUOS, che è sostanzialmente ancora un illustre sconosciuto, e per quanto già se ne sappia, chi ne sa qualcosa, in genere la percezione è che si tratti di una questione locale di questo lontanissimo angolo dell'Europa che è la Sicilia, e tra l'altro del sud, della punta sud della Sicilia, quella parte della Sicilia che geograficamente si trova anche più a sud di Tunisi, che è la zona di Niscemi, dove stanno costruendo il MUOS, la zona della provincia di Ragusa, eccetera. Allora, la prima cosa è, io all'inizio vorrei parlare di spiegare cos'è il MUOS. Per chi lo sa, pazienza se sarò ripetitivo, perché proprio per fare capire e riflettere su quanto questo progetto in effetti riguardi tutti noi, tutti voi, tutti coloro che vivono anche in altre zone dell'Europa. Il MUOS è un sistema di comunicazioni satellitari della Marina Militare Americana, composto da 4 basi a terra e 4 satelliti più uno, che è stato aggiunto successivamente perché la società costruttrice, la Lockheed Martin, a un certo punto si è accorta che aveva sbagliato i conti, aveva sbagliato i calcoli, e il suo sistema con 4 satelliti non poteva funzionare, e ne hanno dovuto progettare un altro e naturalmente farsene finanziare un altro. Quindi saranno, quando sarà completato, 4 basi a terra e 5 satelliti. Le 4 basi sono ubicate in 4 punti strategici del pianeta: in Australia, a Geraldstone, in Virginia, alle Hawaii e in Sicilia. Con queste basi e i relativi satelliti, quindi le basi sono composte da 3 grosse parabole montate su 3 altissime torri. Dalle parabole partono queste emissioni di campi elettromagnetici, questi raggi che vanno nell'ionosfera, arrivano ai satelliti e rimbalzano a terra. Praticamente il tutto per poter governare tutti i tipi di armamenti e tutte le tipologie delle varie branche delle forze armate americane, di terra, di cielo, di mare e sotto il mare, fino anche all'estremo individuo, al militare unico, al soldato e col palmare, per poter dare ordini simultaneamente a tutte le forze armate americane distribuite nel mondo, e quindi poterle muovere a seconda dell'esigenza, prima che gli avversari, i loro nemici, possano minimamente ancora sapere come muoversi, eccetera. Quindi un valore aggiunto che gli Stati Uniti acquistano in potenza, e nello stesso tempo l'introduzione alla guerra tecnologica, alla guerra fatta dai computer, alla guerra in cui la coscienza umana non c'entra più, perché dietro mentre dietro un grilletto, come prima, dietro una spada, o dietro il bottone anche il pulsante di un aereo che sganciava bombe, c'era sempre un uomo, anche se era un soldato, quindi un mezzo uomo, però era sempre qualcuno che biologicamente era stato fabbricato con una coscienza. A questo punto hanno deciso di evitare questo problema, eliminare la coscienza, quindi eliminare l'uomo, e impostare una guerra che faranno solo le macchine. Una guerra quindi che a questo punto scatterà automaticamente attraverso dei programmi che già le macchine hanno e che naturalmente andrà avanti da sé fino a quando le macchine stesse decideranno di fermarsi e che avrà tutta una serie di vantaggi per chi la fa, gli Stati Uniti in questi casi. Gli Stati Uniti perché intanto avevano bisogno di questo? Perché per mantenere i loro standard di vita e per mantenere il saccheggio delle risorse del pianeta, non avendo più l'egemonia economica di un tempo, cercano e sicuramente manterranno la loro egemonia militare. Quindi niente più sangue in queste guerre. Saranno dei videogame e ci sarà qualcuno con un joystick a Washington che farà partire i computer, la guerra andrà avanti da sola, il popolo americano, il popolo televisivo non vedrà sangue, il sangue sarà solo dei disgraziati che comunque continueranno a morire, a essere bombardati, a essere diciamo, distrutti e soprattutto non rientreranno più in America le bare con le bandiere a stelle e strisce di sopra che ancora fino ad oggi rientrano dall'Afghanistan e che sono da tempo, dai tempi del Vietnam, un vero problema per il governo degli Stati Uniti, un vero blocco per l'opinione pubblica, un grande problema che ha ostacolato i loro piani. Questo problema sostanzialmente non esisterà più, niente bare, niente morti da parte americana. E entro il 2048 praticamente saranno le intelligenze artificiali a dirigere le guerre. Capite quindi che noi siamo entrati con questo sistema che ha una base in Europa, che è questa di questo paese dal nome strano, Niscemi, siamo entrati in un contesto in cui l'umanità e soprattutto l'umanità ha fatto un salto bestiale all'indietro perché per la prima volta l'uomo è esautorato da ogni responsabilità in tutte le questioni militariste, in tutte le questioni belliche. E quindi quando noi diciamo che il MUOS è principalmente questo, tutti i danni collaterali che la presenza su uno specifico territorio di queste parabole, dell'emissione di microonde, dei raggi che partono verso i satelliti, tutti i danni collaterali che sono danni all'ambiente, danni alla salute per l'inquinamento elettromagnetico, tutti questi problemi sono sicuramente secondari. Benché naturalmente la gente che vive in questi spazi, in questi ambiti, la prima percezione del rischio e del pericolo di ciò che sta accadendo ce l'ha invece per i danni che questa presenza può provocare. Però non si possono separare assolutamente le cose come qualcuno ha cercato di fare. Un assaggio di quello che avverrà già è in atto con l'utilizzo dei droni, degli aerei senza pilota nelle ultime guerre in cui sono diciamo, attivi gli Stati Uniti d'America, già dall'Afghanistan, ma soprattutto nel Corno d'Africa o l'aggressione alla Libia dell'anno scorso è stata tutta fatta con i cacciabombardieri senza pilota. È stata tutta una guerra tecnologica che è partita da tre situazioni ubicate nel sud Italia, Gioia del Colle in Puglia, dove c'erano i Predator, e poi la base di Trapani Birgi, una base militare della NATO, e la base di Sigonella. La base di Sigonella è una struttura che con il cambiare degli eventi internazionali dall'89 a oggi ha acquisito sempre più un ruolo strategico importante, sia perché è in Sicilia, nel centro del Mediterraneo, ed era già una base nucleare della Marina americana e della NATO. Ma a mano che il fronte est e il fronte nord del nord Europa è stato depotenziato, tutte queste risorse militari, tutti i comandi, tutti i piani strategici sono stati spostati su Sigonella, che è la più importante oggi base delle operazioni militari americane, non solo nel Mediterraneo, ma in Medio Oriente, fino all'Afghanistan, il Nord Africa fino al Centro Africa, tutto ormai a livello di armi, di armamento, eccetera, parte da questa base che è attaccata a Catania. E Sigonella è stata designata come la capitale mondiale dei droni. Quindi sarà questa base la base su cui verranno postati migliaia e migliaia di droni, di aerei senza pilota di varia forma e varia potenza bellica, e da qui le guerre del futuro, che già sono cominciate, verranno portate avanti. Già noi, chi non so, qualcuno di voi è venuto qualche volta di recente in Sicilia in aereo, presumo pochi, ma noi da siciliani che ci dobbiamo spostare in aereo perché viviamo in una zona dove ci hanno privato dei treni, di tante cose, spesso quando rientriamo a Catania veniamo bloccati sopra l'Etna e non ci fanno atterrare anche per un'ora, un'ora e mezza, l'aereo gira, fa il giro tondo continuo, perché in quel momento ci sono le operazioni militari a Sigonella, arrivano i droni o partono i droni e l'aviazione civile si deve bloccare perché è subalterna alle operazioni di Sigonella. L'aeroporto di Catania, un aeroporto che ha una mobilità di 5 milioni di viaggiatori l'anno, quindi uno dei più grossi d'Europa, il terzo d'Italia, praticamente è un aeroporto subalterno alla torre di controllo della base militare di Sigonella, che è a 5 chilometri. Quindi siamo già in questo contesto, questo MUOS messo in quel posto con un'angolazione di 14 gradi dall'orizzonte, quindi che non spara il suo raggio verso il cielo ma lo spara a 14 gradi, questo MUOS ha un compito specifico, che è quello di governare le operazioni militari e i controlli delle forze armate americane, soprattutto nel continente africano, perché da tempo il continente africano, lo sarà ancora più domani, è il campo di battaglia in cui Russia, America e Cina fanno scannare gli africani, i popoli africani, gli stati africani, per il loro controllo e il loro saccheggio delle risorse, principalmente l'acqua e le risorse minerarie. Quindi c'è tutto un motivo molto preciso perché sta costruendo il MUOS. Naturalmente, come tutti sappiamo, dietro queste strategie ci sono anche affari, ci sono anche operazioni finanziarie, per cui per esempio la Lockheed Martin, che è quella che ha progettato il MUOS, ha venduto questo progetto agli Stati Uniti. All'inizio costava, era un progetto da $1.5 miliardi, e strada facendo è già arrivata a $8 miliardi. Quindi, come tutte le grandi opere, anche quelle militari, sono sempre un modo per insaccare soldi pubblici per fare poi delle grandi porcherie. Gli interessi economici in questo caso coinvolgono anche l'Italia, perché naturalmente l'accordo Italia-USA per costruire il MUOS in Sicilia è stato fatto con una spartizione della torta dei miliardi, passata attraverso uno scambio MUOS con contratti a Finmeccanica. Finmeccanica è una delle più, l'ottava holding mondiale degli armamenti, e in Italia, oltre ad essere una fabbrica di armi, quasi tutte su progetto americano, costruite su licenza americana, però è il bancomat della classe politica italiana. Finmeccanica è l'azienda che finanzia tutti i partiti dell'arco parlamentare, dalla destra alla sinistra, passando per il centro, e quindi naturalmente per questo motivo tutti i partiti sono stati contenti che Finmeccanica acquisisse contratti e quindi arricchisse il bancomat, che poi distribuisce in tangenti e in corruzione. Del MUOS in realtà non si è saputo quasi mai nulla, perché rispetto anche ad altre occasioni in cui ci sono state delle scelte per la costruzione di basi, per esempio, non so chi di voi si ricorderà della costruzione della base missilistica a Comiso, degli euromissili Cruise nel 1980-83, allora ci fu un grande dibattito parlamentare, mentre c'erano le lotte chiaramente non solo in Sicilia ma in tutta Europa, poi c'erano anche le basi Cruise in Olanda, eccetera, ma ci fu un grande dibattito parlamentare, conclusosi con il sì alla base, mentre per il MUOS c'è stato soltanto un accordo segreto, semisegreto, tra il Dipartimento di Stato americano e il Ministero della Difesa italiano. Quindi hanno deciso in combutta questi delinquenti, hanno fatto questa scelta di mettere il MUOS in Sicilia. Breve parentesi, Contemporaneamente l'Italia sta acquistando, sempre con la Lockheed in mezzo, questo pacchetto di cacciabombardieri F-35, erano 140 e costavano 15 miliardi di euro, poi con la crisi economica il nostro attuale ancora capo del governo Monti li ha ridotti a 90 perché non ne potevamo proprio fare a meno, il costo si dovrebbe essere abbassato a 9-10 miliardi di euro, però perché sto dicendo questo? Perché nel momento in cui gli Stati Uniti e la NATO naturalmente si sono già lanciati nella guerra con i droni, quindi nella guerra con gli aerei pilotati da Washington senza pilota, la vendita degli F-35 all'Italia è una vera e propria bidonata, è un modo solo per fare soldi, per fare dollari, tra l'altro sapendo che già alcuni altri funzionari della Lockheed e anche del Dipartimento di Stato USA hanno dichiarato che poi gli F-35 sono pieni di difetti e sono degli aerei che loro si volevano sbaragliare e togliere cercando che si li poteva comprare. Naturalmente serbi in giro per il mondo ne hanno tanti, ne trovano tanti. Quindi tornando a noi, nel 2006, nel 2005, nel 2006 si decide in silenzio di costruire il MUOS in Italia. Sono tre governi che avallano questa scelta: il governo Berlusconi, il governo Prodi e il successivo ultimo governo Berlusconi, con il ministro La Russa, il ministro questo fascistone, il ministro della difesa, che essendo ministro siciliano, lui è catanese anche se vive a Milano, e sapendo che noi siciliani purtroppo abbiamo un grande senso dell'ospitalità, lui ci teneva a fare mettere il MUOS in Sicilia e quindi ha offerto la sua terra, diciamo che poi è la nostra terra, agli americani. E allora hanno deciso di postare il MUOS a Sigonella. Postare il MUOS a Sigonella sembrava la cosa chiusa, se non che gli americani si sono ricordati e intelligentemente hanno riflettuto sul fatto che mettere in una base così grande e così importante, piena, gonfia di armamenti, di aerei, eccetera, delle antenne con queste parabole così potenti e così forti, sicuramente avrebbe potuto mettere a rischio la funzionalità della base, perché l'emissione di questi campi elettromagnetici, di questi fortissimi raggi, avrebbe potuto sicuramente interferire non solo con i voli e quindi con l'operatività della base nel suo complesso, ma addirittura portare allo sgancio, innescare gli ordigni messi sugli aerei, cosa già tra l'altro accaduta qualche decennio fa in una portaerea americana, dove un radar molto più piccolo e più modesto, mentre in funzione, fece sganciare delle bombe da un aereo che caddero sulla stessa portaerei e ci furono circa 300 marines morti. Per cui chiaramente il MUOS era improponibile in quella base. Così hanno deciso di spostarla a 60 km in questa zona che si chiama Niscemi, dove gli americani hanno una base. Ora, intanto bevo un po' d'acqua perché questa è la sesta settimana iniziativa che facciamo in 5 giorni, già la mia voce ne risente perché parlo ancora con la pancia. E allora, la Sicilia è da tempo una grande base militare americana, questa isola al centro del Mediterraneo. Da quando gli americani ci hanno, tra virgolette, liberate nel 1943 con lo sbarco che fecero, ci hanno fatto firmare una cambiale che dopo 70 anni noi ancora regolarmente paghiamo, e la cambiale era la mafia che loro hanno rimesso in piedi, foraggiata e adottata come il loro referente politico e soprattutto di ordine pubblico sull'isola, e le servitù militari. Per cui in Sicilia c'è Sigonella, come vi ho detto, c'è l'aeroporto di Trapani, Trapani Birgi, che è un aeroporto militare che in tempo di pace viene usato anche come aeroporto civile, c'è la Ryanair, ci può andare con 5 euro anche da qui, però quando poi ci sono operazioni militari questo aeroporto di Trapani viene chiuso. Infatti durante la guerra di Libia, chiamiamola guerra, l'aggressione, è stato chiuso per 6 mesi. Poi ci sono altre basi importanti, per esempio la base militare di Augusta, la base navale di Augusta è una base dove regolarmente sono parcheggiati i sommergibili nucleari della Marina Militare, e noi siamo un paese dove qualcuno si vanta di aver vinto 2 referendum contro il nucleare, per cui ha impedito che in Italia si costruissero le centrali nucleari, e poi teniamo parcheggiate a casa nostra le armi, le bombe nucleari degli americani, tra l'altro in una zona molto trafficata, perché poi da Augusta questi sommergibili spesso attraversano lo stretto di Messina, una zona in cui c'è un traffico bestiale di navi mercantili, di petrolieri, di traghetti, di mezzi dei pescatori, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente qui il valore del referendum è stato questo. Poi abbiamo tutta una serie di piccole basi, di basi minori. Per esempio, a settembre è stato deciso che a Messina verrà costruito una mega discarica, all'Arsenale di Messina verrà costruita una mega discarica e una struttura per lo smantellamento di tutto il vecchio naviglio della NATO. Quindi tutte le vecchie navi della Turchia, della Grecia, del Portogallo e anche quelle italiane, costruite negli anni 50 e 60, che notoriamente sono stracariche di amianto, piene di uranio impoverito, piene di tutta la monnezza militarista e inquinante che ci possa essere, verranno smontate lì e tutta questa merda verrà poi accantonata in una discarica che hanno già previsto di fare lì vicino all'Arsenale. Ci sono una serie di basi minori, tutte le nostre isolette, Pantelleria, Lampedusa, sono anche delle basi NATO, delle basi di comunicazioni, soprattutto navali e aeronavali. E poi c'è una base che ci interessa nel discorso, dove hanno trasferito il MUS, che è una base che c'è a Niscemi dal 91, si chiama NRTF numero 8, ed è una base di comunicazioni, di telecomunicazioni. Una base costruita lì nel silenzio più totale, perché è una base muta, silenziosa, è una base che hanno costruito all'interno di una bellissima e antichissima sughereta, uno degli ultimi boschi di sughere del Mediterraneo, tra l'altro fatto diventare sito di interesse comunitario alla fine degli anni Ottanta, e all'interno di questo sito di interesse comunitario, dove se ci vai tu e raccogli un fiorellino ti fanno una multa. Gli americani hanno avuto il permesso di sventrare 1.660.000 metri quadrati di terreno, sventrare, costruire bunker, eliminare tutto ciò che di vegetale ci esisteva per costruire questa base NRTF numero 8, che è un bosco di 46 antenne di vario ordine, grado, altezza, potenza, di antenne che servono appunto per sostanzialmente le comunicazioni americane. Con tutto il sistema d'arma che c'è dal Medio Oriente, c'è nel Mediterraneo, tra le quali spicca un antennone di 150 metri, un bestione di 150 metri, che è l'unica antenna con la quale gli americani riescono a comunicare con i sottomarini nella profondità degli oceani, dall'Oceano Indiano all'Oceano Atlantico. Quindi questo antennone di questa grandissima potenza, assieme alle altre 45 antenne, questo qua, da qui partono questi raggi elettromagnetici, queste onde elettromagnetiche che penetrano le montagne di fronte, perché ci sono delle montagne più alte, penetrano le case, penetrano i corpi delle persone e arrivano dove devono arrivare con i loro segnali. Da 21 anni questa base ha ammazzato chissà quante persone, perché lì c'è un altissimo tasso di tumore, un altissimo tasso di leucemie, un altissimo tasso di distacchi della retina, di tutta una serie di patologie poi minori, ma siccome Niscemi è ubicata a pochissimi chilometri, in linea d'aria saranno 5-6 chilometri, da un grandissimo petrolchimico, da una raffineria che è quella di Gela, una delle tre mega raffinerie in Sicilia, che è fortemente inquinante, si è sempre addebitato tutte queste morti, tutti questi danni alla salute delle persone, alle esalazioni e ai fumi della raffineria, perché nessuno aveva mai spiegato che in realtà quella base era mortifera ed era pericolosa. All'interno di questa base stanno costruendo il MUOS. Stanno costruendo. Pensate che questa base si alimenta, consuma 700.000 litri di gasolio l'anno per fare funzionare queste antenne. Quindi, quando a un certo punto abbiamo scoperto, e hanno scoperto prima ancora di me e di altri, che c'era il MUOS, che stavo aprendo questo MUOS, è stato quando, dopo questo accordo governativo, sono andati al comune, in questo piccolo paese sconosciuto, ha detto comunque a 30.000 abitanti, da noi è piccolo, ma è un paese di 30.000 abitanti, sono andati a sbrigare le pratiche per i quattro permessi di costruzione dall'ufficio tecnico, la valutazione di impatto ambientale, a consegnare queste cose, dicendo e spiegando agli ignari impiegati dell'ufficio tecnico di questo paesino che stavano soltanto sostituendo delle antenne, avrebbero messo delle parabole che non c'era nessun problema, e quindi è stato tutto liscio, è passato tutto liscio. Se non che degli attivisti che intanto si è saputo che lì stavano facendo il MUOS, ma come così, senza farci tanta attenzione, degli attivisti che da tempo hanno continuato sempre a lottare per la smilitarizzazione di questa terra, tra cui Antonio Mazzeo, che è il compagno che ha scritto questo libretto, che è l'unico che spiega cos'è il MUOS, hanno messo la pulce nell'orecchio al sindaco di Niscemi, che è un sindaco allora del Partito Democratico, dicendo: ma guardate che a noi ci risulta che invece il MUOS è qualcosa di molto pericoloso, sono informati, fa parte di tutto un disegno e soprattutto farà molto danno alla salute. Allora, a questo punto il comune di Niscema ha chiesto delle misurazioni all'ente preposto, si chiama ARPA, delle misurazioni intanto sull'esistente, perché quelli gli hanno detto: guardate che già qui c'è una situazione pericolosa, se facciamo costruire queste parabole la situazione degenererà. Allora l'ente preposto, l'ARPA, è andata a fare delle misurazioni. Ha fatto delle misurazioni e già ha detto timidamente che effettivamente lì si sforava già, si sforavano i limiti consentiti dalla legge, che in genere questi limiti legali sono molto bassi e molto blandi. Però poi ha detto anche, ma questo l'ha detto molto tempo dopo, che effettivamente lei non aveva gli strumenti adatti per controllare queste antenne, soprattutto l'antenna più potente, e che comunque aveva controllato il 50% delle antenne, perché l'altro 50% erano spente, ma lei sapeva di questi numeri perché l'aveva controllato sulla parola d'onore del comandante della base, che gli ha detto: guardate, sono spente il 50%, eccetera. Mentre in genere, per esempio, nella lotta che stanno facendo i compagni sardi contro il radar, cioè il movimento non radar, lì la pretura, incalzata dal movimento e dai contadini, ha fatto entrare i carabinieri nelle varie strutture, gli ha fatto spegnere il radar. E poi hanno messo tutte le macchinette per il controllo e le hanno fatte accendere ai carabinieri, no? Invece qui loro sulla parola sono rimaste davanti alla porta, sulla parola del comandante, e hanno fatto questi controlli. Comunque, diciamo che il comune, già sulla base di questi quattro elementi, era deciso a revocare i permessi che aveva dato, ma ormai li aveva dati e non poteva tornare indietro. Per cui succede che a un certo punto cerca di usare una forma di pressione verso gli americani, verso il governo, e mobilita il comune stesso, la cittadinanza. Nel 2006 c'è una prima grossa manifestazione, ci sono i sindaci dei vari paesini, quelli gonfaloni, i vigili urbani, 10.000 persone comunque scendono in piazza. Arriva colui che non so se voi lo conoscete, si chiama Raffaele Lombardo, che è stato governatore della Sicilia. Un uomo di centrodestra che attualmente poi successivamente è diventato di centrosinistra. Comunque, questo qua va lì in piazza e dice: guardate, finché governerò io, il MUOS non si farà. Per cui il movimento, fidandosi delle parole di un governatore della regione, quindi di un politico, si è sciolto. I sindaci erano tutti contenti, sono tutti tornati a casa, dopodiché Lombardo gliel'ha messo in quel posto e dopo qualche anno ha dato le autorizzazioni agli americani. E quindi, una volta che è successo questo, naturalmente la situazione è cambiata, perché a questo punto il comune stesso, prima ancora che ripartisse il movimento, si è sentito in dovere, si è sentito un po' anche sbeffeggiato, e ha individuato in due tecnici, ha chiamato due esperti per fare delle perizie di parte. I due tecnici si chiamano Massimo Zucchetti e Massimo Corrado. Il professore Zucchetti, sono tutti e due del Politecnico di Torino. Il professor Zucchetti è un emerito scienziato che insegna anche negli Stati Uniti ed è soprattutto il riferimento del movimento NOTAV della Valle Susa, è colui che ha fornito tutta la perizia contro il governo e contro l'imbregile, contro le ditte, le imprese, rispetto ai danni che lo sventramento delle montagne avrebbero fatto sul territorio e sull'ambiente, rispetto a tutto ciò che c'è nel vento di quelle montagne, e le sue carte, i suoi studi, i suoi documenti, nessuno mai è riuscito a confutarle fino a oggi. Quindi è una figura di grande, diciamo, valenza, eccetera. L'altro professore, il professore Massimo Corrado, che è sardo, ed è anche lui è solo un ricercatore del Politecnico, è anche un attivista del movimento non radar ed è anche un militante anarchico, tra l'altro, questo per noi sarà una cosa ulteriormente importante, un valore aggiunto. Quindi questi due tecnici sono scesi a spese del comune, ma senza prendersi nessun compenso, solo con rimborso spese, sono scesi a Niscemi, hanno fatto le loro perizie, si sono fatti dare tramite il comune i documenti sul MUOS degli americani, che hanno dato delle carte molto povere, molto lacunose, molto omertose, ma già da quelle carte che loro hanno potuto verificare si evinceva che il MUOS già avrebbe portato all'ennesima potenza il danno ambientale che già quell'ambiente subiva, perché era un qualcosa di estremamente grave. Quel raggio che parte da queste parabole, qualsiasi animale, aereo, mezzo l'avesse attraversato, rimaneva fulminato, disintegrato. Quindi a partire da questa perizia e quindi da questo impegno di questi due tecnici, a Niscemi è cominciata, anche con degli argomenti molto forti, una prima protesta popolare. La prima protesta popolare è cominciata perché alcuni ragazzi del più o meno dell'età di molti di voi, comunque ventenni, diciottenni, ventiduenni, e soprattutto delle coppie, una sera alcune decine di coppiette, hanno inscenato, sono inventato una manifestazione vestiti in abiti da sposa, matrimonio, e hanno fatto una marcia dal paese alla base, che era a 3 chilometri dal paese, hanno fatto una marcia fino alla base con uno striscione in cui dicevano: noi non ci sposeremo mai, non faremo mai figli finché qua ci sarà il MUOS. E quindi hanno un pochino rotto il silenzio in quella fase anche dei media nazionali, anche se poi tutto si è richiuso, e hanno rimesso in piedi una piccola attività di contrasto, che però da quel momento, siamo già alla fine del 2010, è cominciata a crescere, e sono sorti in Sicilia parecchi comitati di lotta, parecchi comitati no MUOS, che però all'inizio erano delle realtà molto eterogenee, molto di base, molto spontanee. Sapete tutti, penso, non so in Svizzera, ma da noi ormai tutta una serie di partiti, movimenti politici che nel corso di tanti anni erano sempre infilati nei movimenti e poi finivano per coinvolgerle nelle loro beghe, nelle loro lotte intestine, e hanno affossato il fiore dei movimenti degli anni 90, dei primi anni 2000, ormai sono saltati tutti, non ci sono più sostanzialmente in Italia partiti della cosiddetta estrema sinistra, anche parlamentare, rifondazione, eccetera. E quindi questo movimento è nato senza mediazioni, sono stati i cittadini e questi ragazzi in particolare, dall'altra parte c'erano gli americani, perché anche il governo italiano teneva un profilo basso, per cui è cresciuto veramente in una maniera veloce questo movimento, che ha coinvolto un sacco di gente che era semplicemente preoccupata per i propri figli, per i propri vecchi, perché l'elettromagnetismo colpisce in primo luogo i bambini e gli anziani, le leucemie che ci sono infatti hanno colpito in primo luogo i bambini e gli anziani, per cui a un certo punto è nato questo movimento, che però man mano che è cresciuto, sono cresciuti in un anno, sono 20-30 comitati, chiaramente ha cominciato a fare i conti con una propria identità, perché era molto eterogenea, in alcune realtà si ci sono impelate anche eredi di destra, fascisti, molti qualunquisti, parecchi file istituzionali, per cui creavano dei problemi. C'era chi diceva: se il MUOS lo fanno a Palermo, per noi va bene, basta che lo tolgono da qui, o se lo fanno in un'isoletta del Mediterraneo pure. Quindi sganciavano il problema militarismo, guerra, eccetera, dal problema salute. C'era chi rizzava i capelli appena qualcuno in assemblea diceva compagni, e allora subito si urtavano con questa strumentalizzazione. Per cui siamo stati costretti nell'arco di un po' di mesi a fare tutta una serie di chiarimenti che sono stati poi concretizzati con la stipula di una carta d'intenti che ha detto chiaro e tondo che il movimento è antifascista, è antirazzista, è antiomofobo, è per l'azione diretta, si muove in maniera assembleare, orizzontale, non rifiuta la delega, rifiuta la subalternità alle istituzioni e ai partiti. In poche parole, tutta quella zavorra non ci poteva ritrovare e se n'è andata. Quindi è nato questo movimento, e questa carta d'intenti è stato un momento importante di maturazione, perché visto anche il livello delle presenze, ogni parola e ogni rigo che si scriveva supponeva ore e ore di discussione, anche che sono state defatiganti ma molto importanti per la crescita di questo movimento. Dopodiché il movimento ha deciso di passare a una seconda fase, l'azione diretta. Prima dell'azione diretta, che poi la fase, diciamo, sicuramente più allettante e più importante, vi volevo accennare a un'altra questione. sui danni appunto delle antenne che la gente ha percepito immediatamente, perché fino al 2003 più o meno questa base, chissà perché, io non lo so il motivo, era presidiata anche da un distaccamento dell'esercito italiano, che facevano le guai, i turni di guardia alla base, assieme agli americani. Allora, gli americani che vanno e vengono da Sigonella avevano i loro turni, diciamo, avevano un rodaggio di 6 giorni. Loro ogni 6 giorni avevano il cambio e rientravano a Sigonella, e quando stavano lì dormivano dentro i bunker. Invece gli italiani avevano i cambi turni di 3 mesi, stavano lì per 3 mesi e dormivano nelle tende sotto le antenne. E infatti alcuni ragazzi che facevano il servizio militare lì si sono beccati in questi 3 mesi la leucemia. E questi ragazzi, che sono due in particolare, che sono della provincia di Ragusa, quindi sono della nostra terra e noi li abbiamo poi conosciuti, si sono messi a disposizione, hanno fatto le loro denunce, perché tra l'altro loro si sono rivolti anche al tribunale per essere risarciti, e nessuno, diciamo, c'è tutto un dibattito legale se effettivamente hanno ragione o meno, però di fatto loro sono entrati sani e sono usciti malati, anche gravemente malati. Quindi queste testimonianze noi le facciamo girare nelle assemblee, nei paesi, perché sono spiazianti e nello stesso tempo molto importanti. Detto questo, nel mese di settembre abbiamo fatto un piccolo campeggio lì a Niscemi, che ha sancito che il movimento a questo punto era cresciuto molto bene, aveva raccolto 30.000 firme, aveva fatto soprattutto nelle province più vicine un grande lavoro di controinformazione, e adesso doveva cominciare a mettere in atto delle azioni dirette contro questa base. La prima fu diciamo, una passeggiata notturna con le pentole, le casseruole, i coperchi verso la base. Siamo andati a svegliare gli americani facendo un rumore, e solo questa cosa ha provocato immediatamente all'indomani 17 denunce. Perché? Perché già una cosa che, vista da ora, da quello che è successo dopo, era una grande minchiata, una cosa estremamente povera, diciamo, così in realtà ha dissacrato il tempio sacro, dove nessuno aveva mai osato avvicinarsi e dire qualcosa e fare un rumore. Cioè è stata vista come effettivamente un passo troppo pericoloso, perché avrebbe potuto poi comportare altri passi, no? Per cui hanno subito cercato di bloccarla, ma in realtà era una minchiata. E probabilmente queste denunce anche le archivieranno, perché erano poi, cioè, sì, ci avevano messo saccheggio, ma in realtà era poi manifestazione non autorizzata, radunanza sediziosa, una cosa che usavano i fascisti quando più di 3 persone si incontravano a parlare, no? E allora, però, nel mese di novembre accade un fatto nuovo, perché nel frattempo, da quando nel 2011 il governo regionale poi ha dato, ecco, nel 2011 il governo dà le ultime autorizzazioni, questo passaggio me ne ero dimenticato, e le dà presentando poi, chiedendo delle perizie che sono a due tecnici dell'Università di Palermo, delle perizie che poi erano positive, che dicevano sì, il MUOS non va male. Questi due tecnici hanno fornito queste perizie. Poi abbiamo saputo un mese fa, perché poi c'è stata la riunione di una commissione ambiente e una sanità che li hanno convocate, a questi qua, li hanno incalzati, e questi qua poi hanno messi alle strette che loro avevano redatto queste perizie positive esclusivamente con documenti che gli avevo fornito la Lockheed, l'ufficio Lockheed di Milano. Per cui sono sputtanati, tant'è che poi il governo anche si è incazzato, il governo regionale. Comunque, succede che da quando il governo, governo che nel frattempo era diventato di centro-sinistra e c'è diventato il Partito Democratico, ha dato poi queste permesse definitive agli americani. Dall'autunno fino a nei pochi mesi dell'autunno i lavori sono iniziati in una maniera velocissima per costruire il MUOS, di notte, di giorno, di domenica, di settimana, e avevano già eretto le torri ed erano arrivate le parabole che sono rimaste a terra. Queste parabole sono dipinte di azzurro perché il governo siciliano, forte del proprio coraggio, aveva imposto come contropartita che per evitare l'impatto paesaggistico le dovevano dipingere di azzurro. Per cui abbiamo queste parabole azzurrine, che dovevano mettere sulle torri. Quindi a fine novembre, il 22 novembre, sono andati gli americani con una ditta al comune di Niscemi per chiedere l'autorizzazione per il transito di un trasporto eccezionale nelle vie comunali per trasportare una mega gru che doveva servire a montare queste parabole. E allora a questo punto, questo piccolo movimento che ancora come azione diretta aveva fatto solo la puntata con le pentole, questo piccolo movimento capisce che chiaramente c'è un'occasione d'oro da sfruttare per non fare completare il muso, cioè bloccare la gru, non farla arrivare. E anche con questo segnale, con questa parola d'ordine, parecchi cittadini che prima stavano lontano a guardare hanno capito che effettivamente questi ragazzi avevano ragione e potevano, mentre prima era un discorso come facciamo a convincere gli americani, ora avevano un'arma che prima non pensavano di avere, non facciamo passare laggiù e il MUOS non lo fanno. Per cui dal 22 novembre inizia il movimento, si struttura diversamente. Da una parte si mettono in piedi tutta una serie di piccoli presidi fatti da staffette che dalla base di Sigonella, 60 km più lontano, e da Catania fino a Niscemi, presidiavano tutti i bivi principali delle strade per controllare il passaggio della gru e avvisare in tempo. E questa attività è durata più di un mese e mezzo, fino ai primi di gennaio. Quindi i ragazzi che sono veramente scoppiati a livello di ritmo, di impegno, dormendo, non dormendo sulle macchine, eccetera, in inverno, per controllare il passaggio della gru. E nel frattempo, sul posto, vicino alla base, si è messo in piedi un presidio. Si è messo in piedi un presidio che all'inizio avevamo proprio trovato un terreno che ci avevano messo a disposizione, attaccato al cancello d'ingresso. Poi, diciamo fortunatamente, ora possiamo dire fortunatamente, comunque il proprietario è stato pressato per mandarci via e quindi ci ha detto: ragazzi, io non posso più reggere la pressione, spostatevi. E ci siamo spostati 2 km più là su un altro terreno. Dico fortunatamente perché Zucchetti e Corallo, appena hanno saputo che eravamo messi là, ci hanno detto: ma guardate che lì poi vi ammazzate la salute, è troppo vicino. Ora è 2 km, non è che è molto più lontano, però diciamo che è un pochino meglio. Si è quindi preso un altro terreno che è stato acquistato stavolta, in modo che possa essere del movimento, nessuno ci può buttare fuori. I soldi sono stati anticipati da un compagno, 7.000 euro tra l'altro, perché lì ormai la terra vale poco, visto quello che c'è, e si stanno raccogliendo ora per rimborsarlo, e si è costruita delle baracche, dei gabinetti, un minimo di struttura per svolgere assemblee e per vivere lì. E da quando esiste questo presidio, mentre c'erano quelle staffette, man mano molti cittadini, i contadini del posto, molta gente si è cominciata ad avvicinare e ha cominciato ad adottare questo presidio, questa realtà. Portavano da mangiare, hanno cominciato a coccolare i ragazzi, a farli mettere all'ingrasso perché arrivavano i cannoli, la pasta al forno, i ravioli, i carciofi. Continuamente la gente si sentiva in dovere di fare parte di questo movimento, di questa lotta e quindi di fare qualcosa, che in quel momento era coccolare il presidio, no? E quindi si è coccolato il presidio e nel frattempo ci sono state le elezioni regionali in Sicilia, tutti i partiti durante la campagna elettorale erano contro il MUOS, anche quelli che l'avevano autorizzato, e quindi quello che ha vinto, che era l'ex sindaco di Gela, oggi governatore Crocetta, questo qua del PD, aveva promesso moltissimo in campagna elettorale: la prima cosa che farò io, bloccherò il MUOS, no? Per cui questo qua è stato continuamente pedinato perché abita dall'altro lì vicino. Ogni manifestazione a cui partecipava, ogni cerimonia, c'erano sempre i compagni con le bandiere no MUOS a dire: ehi, senatore, come è finita col blocco? Gli abbiamo rotto i coglioni. Fatto sta che a un certo punto, ai primi di gennaio, il Parlamento siciliano, l'Assemblea regionale siciliana, all'unanimità intanto ha votato un ordine del giorno per il blocco del MUOS e ha chiesto appunto al governatore di muoversi in questo senso. Allora, lui si è venduta questa notizia, sì, ora io blocco il MUOS, è passata nell'opinione pubblica il fatto che già la regione avesse risolto il problema un'altra volta. Questa volta però nessuno ci è cascato, perché già c'era stata la prima fregatura di qualche anno prima, e anche perché poi si cercavano effettivamente queste carte con l'arrivo, che le carte non venivano fuori mai. Poi abbiamo saputo, ma l'abbiamo saputo solo un mese fa, che in realtà lui aveva mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno al comando americano di Bagnoli vicino a Napoli, nella quale lui chiedeva gentilmente se potevano sospendere il MUOS. E poi, dopo 15 giorni, la raccomandata gli è pure tornata indietro. Mentre a Sigonella aveva spedito un fax, ma gli avevano dato un numero sbagliato e il fax non è mai arrivato a destinazione. Ma questo l'abbiamo saputo un mese fa. Per un mese e mezzo loro hanno venduto in giro per il mondo che la regione aveva bloccato il MUOS. In realtà la regione non aveva bloccato il MUOS, però questa presa di posizione ufficiale dell'Assemblea regionale aveva provocato una prima reazione del governo italiano che finalmente, rompendo un silenzio che durava anni, nella veste della ministra Cancellieri, che è un ex prefetto di ferro e che è comunque ministro dell'interno, ma quel giorno ha vestito le vesti di ministro della difesa, ha dichiarato che il MUOS è sito di interesse strategico per la nazione e non saranno tollerate forme di proteste di opposizione, forme che impediranno la mobilità di mezzi, di uomini, eccetera. Questa dichiarazione in realtà aveva un doppio significato. Uno era quello di acuire e aumentare il peso di eventuali denunce e atti repressivi, che a quel punto erano atti contro un sito di interesse strategico della nazione e quindi avevano una gravità maggiore. Due, era una specie di via libera anche alla repressione. Ma la repressione perché? Perché si aspettava la GRU e perché loro, sapendo che tutti si aspettava la GRU, dal 22 novembre, questa GRU, eravamo i primi di gennaio, ancora non era potuta partire. Una sera, la sera del 10 gennaio, un ragazzo che lavorava in un autogrill vicino a Catania telefona al presidio e dice: guardate che da qui è passato il convoglio. E il convoglio erano tre camion con questa GRU smontata e una serie infinita di mezzi militari, dei carabinieri, le teste di cuoio, la Celere, la Digos, tutta una serie di furgoni, furgoncini e macchine che lo scortavano. Per cui tam tam in tutta la Sicilia, siamo partiti da tutta la Sicilia, che cosa troviamo? Arriviamo verso mezzanotte, l'una, a Niscemi, e troviamo un paese occupato militarmente. C'è una cosa che non era mai accaduta in Italia: un intero territorio di circa 10 km quadrati era occupato militarmente in tutte le sue strade vive, le trazioni di campagna, e impedivano la mobilità dei cittadini, anche dei contadini che ci abitavano, non si doveva mai muovere nulla. E tutti i telefonini spenti, cioè tutte le antenne della telefonia cellulare spente, nessun telefonino funzionava. Per cui noi siamo arrivati da vari posti, da vari angoli, siamo arrivati in varie strade, e nessuno sapeva dove era l'altro, nessuno poteva comunicare, nessuno poteva raggiungere l'altro, nessuno sapeva da quale strada arrivasse il convoglio. Finché verso le 3 di notte arriva uno che con una macchina dice: giù, ci sono scontri, stanno massacrando i compagni perché hanno intercettato il convoglio. In realtà, tra tutti questi gruppi spasso, un gruppo di 50 persone, soprattutto per i niscemesi che conoscevano anche certe strade, avevano intercettato a 10 km di distanza la GRU e si erano schierate tutte 50 per terra con i loro corpi, avevano impedito il passaggio, erano stati scaraventati fuori, erano tornati lì, poi erano stati picchiati in maniera sempre più violenta, alla fine caricati, e dopo due ore di battaglia con molti, diciamo, compagni ammaccati, il convoglio sfonda e passa, sale verso la base, incontra un secondo blocco, perché appunto eravamo tutti dispersi, molto più debole, questo blocco viene sfondato quasi velocemente e finalmente alle 4.05 la GRU con tutto il colazzo dei militari entra alla base. Alle 4.15 tutti i telefoni di tutti i compagni, che nel frattempo ci cominciamo a ritrovare, cominciano a squillare per tutte le chiamate senza risposta che avevamo ricevuto o fatto durante la notte, con tutti i tipi di suonerie, perché avevano riacceso il tutto, quindi era tornata la legalità in quel territorio. Questa questione però, lungi dal demoralizzare, perché chiaramente ci siamo riuniti alle 4.30, abbiamo fatto un'assemblea, eravamo un po' sconfortati dagli eventi, perché si puntava molto su questo blocco, perché a questo blocco avevano partecipato molti papà dei ragazzi, molte famiglie, molti cittadini del paese che per la prima volta avevano deciso di fare qualcosa, e quindi si è deciso di non arrendersi, ma di cambiare strategia. Vabbè, loro sono entrati. Da domani noi non faremo muovere una mosca sulle strade, non passerà nessun operaio che dovrà andare al cantiere, nessun mezzo, nessun camion, nessun furgone, nessuna motoave, nessuna carriola, sarà tutto fermo. E così la nuova strategia da quel giorno è diventata 11 gennaio, blocco totale dei cancelli e delle strade di accesso. Per cui dal presidio che è attaccato alla strada, il presidio è costruito una barricata e poi si sono cominciati a fare i presidi notte e giorno attorno ai cancelli. A questi presidi ha cominciato a partecipare alla grande anche la popolazione di Niscemi, e quindi è diventata questa una lotta popolare. Pensate che questi presidi sono durati fino a due giorni fa, quindi noi siamo dall'11 gennaio fino a due giorni fa, lì non è passato nessuno, il cantiere non è mai stato messo in funzione, è rimasto bloccato. Addirittura, ingestivamente, la gente era talmente ingazzata che non sono passate neanche i militari americani. Una volta sono rimasti dentro per 4 giorni e gli altri fuori per 4 giorni, poi gli si è concesso di darsi il cambio a piedi, lasciando le macchine a piedi davanti al blocco dei cittadini. Ma mentre si è fatto questa cosa, che si facevano questi blocchi, naturalmente la controparte non stava a guardare, allora loro le hanno provate tutte, hanno aperto delle strade nel bosco per fare passare gli operai e sono stati intercettati. Hanno mandato gli operai a uno di notte, sono stati bloccati, li hanno vestiti da militari, perché a un certo punto i militari si facevano passare, e sono stati bloccati, finché un giorno la polizia viene e dice: allora facciamo un patto, noi non ne facciamo passare più gli operai, non li scortiamo, ma voi almeno gli americani fateli entrare e uscire. Era un patto non scritto, naturalmente, che è stato, tra virgolette, rispettato solo con l'ospizio che gli americani si facevano stare 1 ora, 2 ore fermi prima di farli passare, gli si rompeva un po' il cazzo, si rallentava la funzionalità della base. E quindi, mentre avveniva tutto questo, e mentre a un certo punto accade un altro fatto a Niscemi, che a febbraio, ai primi di febbraio, si costituisce un nuovo comitato di sole donne, le mamme non muosse, che questo delle mamme, parola mamme, magari può far ridere perché è sempre un termine retrogrado, ormai. Invece loro erano delle mamme, semplicemente, che consapevoli del fatto che lì i danni, a questo punto i lutti, i morti, i malati, i bambini nati con i tumori che loro avevano avuto, avevano una causa ben precisa ed erano quelle maledette antenne, queste mamme hanno deciso di diventare parte integrante della lotta, pur essendo un gruppo coeso, e quindi questi qua sono venute ai cancelli. Queste qua hanno cominciato, prima lasciavano i bambini a scuola e poi venivano ai blocchi, poi hanno cominciato a fare i blocchi alle 5 di mattina, dando il cambio ai ragazzi che facevano la notte. E quindi questo fatto nuovo ha cambiato ulteriormente le carte in tavola, perché il blocco è diventato più forte, perché queste donne erano veramente ingazzate fino al punto che non tolleravano nessun tipo di provocazione. Loro sono arrivate al punto che hanno fatto scendere gli americani dai furgoni e perquisivano i furgoni dei militari americani per vedere se trasportassero attrezzi da lavoro, attrezzi per il cantiere, poi gli controllavano i documenti loro ai militari americani per vedere se erano effettivamente militari americani e non operai travestiti da militari, eccetera, eccetera. Cioè, si è arrivati, vi ricordo le pendole, 17 denunce, si è arrivati a tutto questo senza nessuna denuncia, tutto, tra virgolette, tollerato, tra virgolette. Quindi un livello di conflittualità che è partita blanda con l'informazione, eccetera, e che è arrivata a costruire una piccola valsusa a Niscemi in un modo estremamente veloce, estremamente rapido, da gennaio poi fino a questi giorni. Quindi è successo tutto questo, con tutta questa pressione, e quindi col blocco del cantiere. Nel frattempo il governo regionale non poteva più fare finta di nulla, non era troppo sputtanato, per cui il governo, che appunto ha chiamato i tecnici, ha fatto delle audizioni, sono venuti anche al presidio i deputati delle commissioni ambiente e sanità, hanno fatto venire i periti Zucchetto e Corrado del comune e a questo punto anche del movimento, ha deciso di revocare finalmente le autorizzazioni del MUOS sul serio. Ha fatto le revoche ai primi di febbraio, ma nella prassi burocratica una revoca ha bisogno di almeno un mese per diventare operativa, perché devono dare il tempo di un eventuale secondo al TAR, eccetera, eccetera. Comunque questo non ha valore, in quanto già di fatto la revoca dal basso era stata applicata, i lavori dal basso erano stati sospesi, e quindi quando poi è diventata ufficiale la revoca istituzionale, già non viene fatto niente a nessuno, perché già lì non lavora nessuno da tempo. Quindi questa è la piccola storia di questa lotta arrivata fino a questi giorni. Naturalmente dietro il retroscena di tutto ciò, che cosa c'è? C'è intanto appunto che tutto quello che vi sto raccontando è partito in una maniera molto spontanea. Sì, siamo arrivati gruppi di compagni, di militanti che abbiamo una certa esperienza, ma sostanzialmente questa è stata una lotta partita da persone che non avevano un entroterra ideologico, politico. Qualcuno aveva delle invarinature molto blande, e la gran parte delle persone che non avevano mai fatto politica e fino a qualche mese prima mai si sarebbero sognate di fare una lotta del genere. Però io ho fatto il paragone con la Valle Susa, ma noi in realtà dobbiamo riflettere su una cosa. La Valle Susa ha costruito quello che ha costruito in un lungo periodo di anni, ma anche perché la Valle Susa ha un DNA resistenziale molto forte, è un territorio dove c'è stata una forte resistenza partigiana, dove non ci sono sostanzialmente famiglie che non hanno avuto un partigiano in casa, un parente partigiano, addirittura un partigiano ucciso dai nazifascisti. Nella Valle Susa, dal dopoguerra, passando per il 68, passando per gli anni 70, è stato sempre un grande laboratorio di lotte politiche molto avanzate. Vi ricordo soltanto che Prima Linea aveva una colonna in Valle Susa negli anni 80, una colonna tra l'altro molto forte, che poi è stata completamente distrutta dalla repressione, dagli arresti. Quindi la Valle Susa ha un DNA estremamente significativo, che ha favorito il coagulo di questa, diciamo, di questo movimento, che poi infatti è uno dei movimenti politici e di lotta di base più avanzati che abbiamo mai avuto dal dopoguerra ora. Niscemi invece è come se noi mettiamo la Valle Susa a questo livello, Niscemi è sotto zero. Niscemi è partito veramente da lontano. Niscemi è un paese dove l'acqua arriva ogni 15 giorni, l'acqua potabile arriva ogni 15 giorni. E quindi la gente vive per 2 volte il piacere di avere l'acqua a casa 2 volte al mese. Tutte le case hanno dei serbatoi blu, tutto il panorama del paese non sono i vostri tetti rossi, sono i serbatoi blu dove si cerca di conservare più acqua possibile per il periodo in cui non c'è acqua. Eppure la gente non si è mai ribellata. Niscemi è un paese dove vige l'abusivismo più estremo, dal commercio e soprattutto all'edilizia e a tutto il resto. È un paese dove i livelli di solidarietà, che in genere umani, che si costruiscono nei quartieri, nelle scuole, negli ambiti di lavoro, sono stati distrutti da una pratica clientelare estrema e dalla mafia. Perché Niscemi, pur non essendo ubicata nella zona tradizionalmente mafiosa della Sicilia, Agrigento, Palermo, Trapani, Caltanissetta, e in provincia di Caltanissetta, ma è molto a sud, Niscemi è un paese fortemente mafiosizzato. È un paese in cui il consiglio comunale, la giunta comunale è stata sciolta 2 volte per infiltrazioni mafiose. È un paese in cui la ditta prescelta dai militari, dalla Marina americana per costruire il MUOS è la ditta che fa direttamente capo al boss locale che si chiama Giugno, e questo su carte, su inchiesta della prefettura Arcinote. È una ditta che non ha il certificato antimafia perché gli è stato tolto non avendo i requisiti, ma gli americani, sapete, per fare le loro porcherie non hanno bisogno di obbedire a nessun tipo di legge nazionale, per cui loro scelgono le loro ditte di fiducia, appunto, di fiducia. Per cui Niscemi è tutto questo, Niscemi è questo territorio devastato culturalmente e anche moralmente. E quindi tutto ciò che è avvenuto in questo presidio, le assemblee, la capacità della gente di cominciare a confrontarsi, il coraggio di sfidare un mafioso che ci sberleffa durante i cortei dal bar e sfotte i manifestanti, e quindi il coraggio di sfidare una situazione veramente plumbea, pesante, ha un valore enorme. Noi lo riteniamo un valore anche rivoluzionario, perché quello che è successo, questo anche alto livello di lotta e di scontro che la gente si sta gestendo, sicuramente qualcosa di rivoluzionario, senza voler con ciò fare chiaramente una povera propaganda, ma nel senso più pulito e più genuino del termine. Cioè la gente ha rivoluzionato un comportamento che era impensabile fino a poco tempo fa. Quindi è diventata una piccola scuola di resistenza, è diventata una piccola scuola di elaborazione anche di nuovi stili di vita. Questo presidio, in un paese dove non ci sono spazi di socialità, è diventato il luogo di socialità dei giovani, dei ragazzi che finiscono, escono dalla scuola e vanno lì a farsi i compiti, dei ragazzi che la sera non hanno dove andare e vanno a passare la notte lì al presidio, soprattutto sabato e domenica quando si fanno le feste, tutto ciò. E quindi, tra l'altro, appunto, l'acquisto del terreno in prospettiva, se veramente gli americani se ne andranno, servirà a costruire lì veramente un grande spazio di socialità che è stato sempre negato. A un certo punto queste donne hanno usato tante la mattina quando chiudono la porta alle 5 e lasciano dentro il marito i figli vanno al blocco e si portano la nonna, e si portano la zia, e si portano la nipote con le sedie per sedersi davanti al centro della strada, queste donne veramente in quel momento chiudono la porta anche di un passato di oppressione, di un passato che l'ha vista subalterne, che l'ha vista non decidere mai un cazzo, perché lì loro non avevano nessun ruolo se non quello di fare figli e di portarle poi a far diventare possibilmente, nella migliore delle ipotesi, degli emigrati. Quindi è successo anche, rispetto a questo, abbiamo un grande riconoscimento con queste donne, è successa un'altra rivoluzione. È ovvio che queste donne non sono delle persone che ora hanno una grande capacità politica di interpretare il mondo o che hanno una grande forza di cuore, di passione, perché si muovono contro una cosa che li minaccia direttamente, perché si muovono contro una cosa che danneggia il territorio, che ha distrutto le loro prospettive di vita. C'era una ragazza che, diciamo, poteva avere 25 anni, che aveva già due bambini, che in un'assemblea del movimento diceva: io e le mie sorelle ci siamo costruite una casa in campagna qua vicino, ci siamo fatto una piccola piscina per farci giocare i bambini, e ora quando c'è una bella giornata io ho paura a dire ai bambini: andate fuori a giocare nella piscinetta, perché so che appena escono fuori questi qua sono bersagliati da queste onde elettromagnetiche, perché lì il paese è a 3 chilometri, ma in questi 3 chilometri sono le masserie, ci sono le case di campagna di un sacco di gente, e tutto intorno ci sono un sacco di paese nell'arco di 10, 15, 6 chilometri, Gela che è a 6 chilometri in linea d'aria a 100.000 abitanti, poi c'è Comis a 17 chilometri e altri paesi, quindi è tutta un'area contaminata, quindi queste donne veramente ragionano ancora con questa passione, senza una grande consapevolezza politica, quindi sono una realtà anche fragile, una realtà che infatti viene tirata a destra e a sinistra dai politici, perché naturalmente tutti cercano di cavalcarla, però sono protagoniste di un grande esperimento. Per cui ora, nonostante accordi tra il governo siciliano e il governo nazionale, nonostante una revoca legale istituzionale in atto che è seguita a quella di base, la gente non smantella, perché c'è un secondo obiettivo: non fare il MUOS, ma spegnere tutte le antenne e smantellare la base delle 46 antenne, che è quella che il MUOS farà danno, la base fa già danno da anni. Per cui per questo il movimento non smantella, per questo i vediti stanno continuando, e quindi per questo noi diciamo stiamo facendo conoscere questa lotta, perché c'è bisogno di solidarietà, c'è bisogno di estenderla, perché uno dei punti forti dell'eventuale, e noi crediamo anche possibile, vittoria sarà quello che, se questa lotta riuscirà a diventare non una lotta niscemese, siciliana o italiana, ma una lotta giustamente internazionale, perché c'è un sistema criminale di guerra che si sta attuando in tutto il pianeta e quindi ci riguarda tutti. Io per adesso ho finito, grazie di avermi ascoltato con pazienza, scusate se vi ho annoiato, se poi vogliamo dibattere su queste cose siamo qua. Il 30 ci sarà una manifestazione, praticamente col movimento No TAP sono concordate delle scadenze assieme, e anche col movimento No Ponte, il 16, il 23 che è oggi, e il 30 a Niscemi, oggi è in Valsusa, il 16 a Messina e il 30 a Niscemi. A Niscemi ci sarà il 30 la prima vera manifestazione nazionale contro il MUOS, noi ne abbiamo fatta una il 6 ottobre in un momento in cui ancora la lotta non era arrivata ai livelli di oggi e quindi del MUOS si sapeva ben poco, e allora ci siamo proposti come obiettivo almeno 1.000 persone da portare alla base in corteo, a fargli vedere anche visivamente che cosa hanno, questa mostruosità che esiste là. Ebbene, ci siamo trovati a un certo punto con 5.000 persone, è stato un grandissimo risultato che poi abbiamo portato a sfilare anche in città. Allora oggi questa manifestazione, che allora sono venute dal continente 4 o 5 donne del movimento No dal Molin, e quindi il livello nazionale era rappresentato da queste donne e da una lettera bellissima mandataci dai Notab della Valsusa. Adesso questa manifestazione è stata concordata con questi movimenti, è stata inserita in un pacchetto di iniziativa a livello nazionale di questa primavera, e quindi già verranno delegazioni dal continente, dal nord Italia, dal centro Italia, dal sud Italia a manifestare a Niscemi. Per cui il nostro obiettivo oggi è quello almeno di raddoppiare i numeri e portare 10.000 persone a fare vedere la base, a farci sentire la nostra voce alla base, e poi a farci vedere anche dai cittadini, che nel frattempo più più del 6 ottobre, ora sicuramente saranno protagonisti di questa manifestazione. Quindi non vi dico scendete ogni scemi, chi vuole può scendere, però chiaramente vi comunico che anche questo fa parte di questo tentativo di allargare, di estendere il movimento per cercare anche di imporre nuove decisioni al governo nazionale, semmai non riusciranno a fare uno. Sì, allora, la carta di niente è nata dal fatto che l'eterogeneità delle presenze nelle riunioni, nelle assemblee, perché lì tutto si passa sempre attraverso assemblee che discutono, almeno cercano di impostare tutte le cose che si fanno. L'eterogeneità comportava sempre tutta una serie di scacci continui che alla fine diventavano centrali nella discussione, appunto, siamo compagni o non siamo compagni, siamo di sinistra o non siamo di sinistra, siamo antifasciste, questa cosa alla fine oppure siamo contro la guerra o siamo solo perché il MUOS fa male alla salute oppure uccide gli uccelli, danneggia l'ambiente, eccetera. Tutte queste varianti hanno portato a definire con dei punti ben precisi le basi su cui si aderiva ai comitati o comunque si aderiva al coordinamento dei comitati. Chi non aderiva a queste basi se ne poteva andare e si faceva la sua lotta legittimamente, però per i cazzi suoi, no? Per cui abbiamo costruito questo documento in 12 punti in cui si parla, prima parte, che cos'è il MUOS, che è una parte generica, più o meno quello che vi ho detto io, seconda parte, che cos'è il movimento, quindi come si caratterizza, e allora, visto che abbiamo deciso di non dare per scontato che siamo antifascisti, perché sembrerebbe scontato quando ci incontriamo in questa situazione, poi alla fine ti accorgi che scavando, scavando, per molti non è scontato, anzi per molti non lo è assolutamente, perché abbiamo deciso che un movimento che è antimilitarista, che su queste, si muove su queste basi, non può non essere anche antifascista e che un fascista non può sposare una causa del genere, o se lo fa, lo fa per 10 motivi, per cui abbiamo definito antifascismo, antirazzismo, antiomofobia, tutta una serie di punti, e poi abbiamo anche definito i metodi di funzionamento del coordinamento, proprio per evitare, perché c'è sempre il discorso, decidiamo a maggioranza, votiamo, ogni cosa votiamo, ma scusa, se qua in questa assemblea ce ne siamo 15 da Ragusa, uno da Catania, uno da Palermo, uno da Niscemi, votiamo, che significa votiamo? Siamo 18. Noi siamo in 15, allora abbiamo detto la legge dei numeri, la maggioranza e minoranza non deve esistere, si decide all'unanimità, consenso condiviso, anche se dobbiamo discutere per 2 giorni, dobbiamo arrivare a una decisione condivisa da tutti, per cui queste cose non sono scontate, c'è stata un'ampia discussione e alla fine sono state messe nero su bianco, per cui oggi quando arriva qualcuno che non ci convince, gli dice noi siamo questi, se ti piace ti adegui, altrimenti fatti la tua lotta col sindaco, col deputato, eccetera, eccetera. Quindi da qui è nato questo documento, che è un documento bellissimo, secondo me, molto utile, che ci è costato una fatica enorme per farlo passare, per farlo digerire, per farlo comprendere a persone che non avevano la cultura neanche per parlare di queste cose, però posso dire che dalla parte più popolare e più spontanea invece è stato accolto tranquillamente perché si rivedevano e si vedevano in queste cose. I veri problemi sono stati con certe componenti più politicizzate, no? Che erano meno abituate a certe cose, per cui l'unanimità, eccetera, sempre non la concepivano molto. Alla fine questa è la carta d'identità di questo movimento, che non è l'unico, perché poi quelli che si sono allontanati si sono costruiti un loro piccolo coordinamento con un presidente, un vicepresidente, tutte queste cazzate, e esistono pure loro, e possibilmente anche sono quelli che vanno a cercare i deputati o vanno a cercare le televisioni, naturalmente, e noi ci hanno cominciato a cercare quando abbiamo avuto le cariche della polizia, ci hanno cominciato a cercare quando abbiamo avuto le denunce o le perquisizioni, quando succede qualcosa vengono ai blocchi, quando non succede niente vanno da questi qua che sono lì in paese e aspettano che arrivi il gabibbo, distriscia la notizia, oppure arrivano queste cose per farsi vedere in televisione, no? Ma, beh, esistono anche queste, non le possiamo uccidere, no? Ma guarda, anarchico fino a un certo punto, perché noi, cioè, gli anarchici presenti in questo movimento, e bene o male in Sicilia tutti gli anarchici sono presenti in questo movimento, abbiamo dall'inizio ci siamo orientati verso la costruzione dei comitati e non verso una presenza specifica anarchica. Cioè, tanto per noi l'obiettivo è l'autorganizzazione, cioè il mio obiettivo non è che io lì ora raduno e da uno diventiamo 10 anarchici, l'obiettivo è che che si costruisce un movimento che è in grado di andare con la propria testa e le proprie gambe. Per cui noi ci siamo contraddistinti perché su queste questioni magari avevamo le idee più chiare e eravamo anche conosciute. Per cui il movimento non si può neanche definire anarchico perché ha varie componenti, anche di stazione marxista, pacifista, eccetera. Però che si ritrovano su questi contenuti fondamentali che per me sono libertari in una maniera autoritaria indiscutibilmente, no? Però chiaramente io non lo definirei un movimento anarchico proprio perché, soprattutto quando è arrivata la forza popolare, sono arrivate le mamme, è arrivata la gente del paese, chiaramente è arrivato un elemento molto fragile e debole dal punto di vista culturale e politico, un elemento che magari irrompe nella lotta, molto incazzato, la rafforza, però dal punto di vista della consapevolezza di certe cose è molto debole, è più attaccabile, no? Non è in grado di gestire una discussione, una cosa, quindi etichettarla in un certo modo sarebbe estremamente scorretto e anche, oltretutto, secondo me, pericoloso, perché presterebbe il fianco a coloro che già all'inizio ci accusavano di strumentalizzare il movimento, siete anarchici, siete comunisti, per cui noi abbiamo sempre cercato di parare questi colpi. Quindi il movimento è un movimento auto-organizzato, questo a noi ci basta, e se crescerà con questa consapevolezza, domani dopo il MUOS gli romperà tutto il culo anche per avere l'acqua, per avere il lavoro, per avere gli spazi che gli hanno negato in questo paese, perché alla fine forse la battaglia si potrà magari perdere perché abbiamo il gigante americano, però sicuramente lì sta sedimentando una consapevolezza che sarà sicuramente, non scomparirà con un'eventuale sconfitta, ma sarà molto utile per fare nascere in quel paese esperienze di lotta interessanti su obiettivi più vicini alla vita della gente e anche più conseguibili, perché riuscire a far arrivare l'acqua due volte alla settimana è un obiettivo rivoluzionario, quando arriva ogni 15 giorni, ed è secondo me molto conseguibile, no? Però ci vuole anche la cultura della lotta, che non c'è, la cultura di fare la lotta anche in un certo modo, senza farsi invinocchiare dal partito o dal sindaco, che sono tutti, essendo tutti oggi non muosi, ce li troviamo sempre in mezzo ai piedi in qualsiasi circostanza, no? Sì, ingannare, comprare o ricattare, perché c'è anche il discorso della mafia, eccetera, eccetera, no? Però chiaramente non ci posso giurare, perché poi, sai, per esempio, a volte quando abbiamo bloccato degli operai, erano operai che facevano nella vecchia base la manutenzione, i giardinieri, i pulizieri, e lì non sono andati a lavorare neanche loro, questi che erano nel paese, hanno cominciato a dire: io ti conosco, so chi è tuo zio, so chi è tuo marito, so chi è tuo padre, stai attento. Per cui noi non possiamo giurare su ciò che succederà domani. Lì la corda è stata tirata molto, lì il livello del conflitto si è alzato molto, per cui si è arrivato a un punto in cui qualcosa succederà, questa gente non ci regalerà una vittoria così facilmente, sicuramente, come è sempre successo, come accade anche in Valle Susa, metteranno una malovaranza criminale a bruciare il presidio, a ricattare le persone, arriveranno una repressione più grossa, questo ce l'aspettiamo, è tutto messo in conto. Quindi quando accadrà questo noi non sappiamo se il marito di una mamma o una mamma stessa ricattata o con una promessa particolare può tirarsi indietro, oppure qualcuno può fare qualcosa, che una provocazione che li può fare anche impaurire e allontanare. Cioè è una situazione, ripeto, fragile da questo punto di vista, però che intanto fino ad oggi ha fatto tutto questo, ha impedito che questo progetto americano andasse avanti. Negli Stati Uniti la più importante rivista di strategia militare americana è uscita un mese fa con in prima pagina il discorso: c'è un problema antiscemi con i blocchi degli attivisti no MUOS. Era l'articolo di prima pagina di questa rivista, quindi significa che effettivamente loro non avevano messo in conto tutto ciò. Loro sono sempre andati tranquillamente, in silenzio, con i loro compari a fare i loro corsi comodi. È successo questo, sicuramente staranno studiando delle contromisure. Ma il MUOS sostanzialmente lì è quasi costruito, cioè proprio dall'ultimo montaggio. Sì. Dobbiamo anche considerare che attualmente in Italia c'è una situazione particolare, politica, per cui c'è una specie di pausa nei livelli decisionali, no? E questa cosa ci ha anche, penso, favorito, come potrebbe a un certo punto fare pensare a questi qua: facciamo quello che vogliamo perché tanto nessuno ci dice niente, no? Però noi pensiamo che questa contraddizione di questo momento particolare in cui non ci sono ordini, per adesso ha giocato a nostro favore, Ha giocato a nostro favore anche il fatto che il governo siciliano, che a parole aveva deciso di bloccare il MUOS, poi è stato indotto a farlo sul serio. E siccome la Sicilia è una regione a statuto autonomo, è un piccolo staterello sostanzialmente su certe cose, e ha la prerogativa assoluta in tema di sanità e ambiente, ce l'ha la regione, non ce l'ha lo Stato, noi italiano. Per cui la Sicilia, nessuno può, diciamo, fare indietreggiare la Sicilia se ha deciso di bloccare il MUOS su problemi sanitari, eccetera. Quindi, quando si farà un governo ora nazionale, sicuramente ci sarà anche un conflitto istituzionale tra Sicilia e Italia su queste questioni. Quindi anche lì ci sarà una partita nuova che si aprirà, e che per la prima volta da quando la Sicilia è regione autonoma, cioè dal 1946, per la prima volta porrà il problema del rapporto Stato-Regione rispetto ai livelli di autonomia che la regione ha. Quindi questa è un'altra questione che ancora dovremo vedere. Nel frattempo, un'altra cosa che posso dire, che appunto è fresca, è che gli americani, dopo un'attesa in cui loro hanno comunicato che accettavano le decisioni del governo regionale, quindi stavano calmi, hanno cominciato a fare tutta una serie di giri di propaganda, il console, per esempio, nelle scuole, interviste, ha mandato fax, documenti, mail, dicendo che il MUOS non fa male, dicendo che loro sono disponibili, come già fanno negli Hawaii e in Virginia, perché queste due basi in territorio americano, tutte e due, sono le uniche completate. E lì loro hanno fatto delle perizie post-installazione, no? Che naturalmente dicono che il MUOS non è pericoloso. E allora lui continua a dire: noi faremo fare anche qui una perizia post-installazione per dimostrarmi che il MUOS non va bene. Per cui hanno cominciato una campagna mediatica, e dall'altra parte, notizia di due giorni fa, il prefetto di Caltanissetta, che è la provincia dove c'è Niscemi, ha già convocato un compagno anziano del comitato e gli ha detto: guardate che noi da questo momento non tollereremo più i blocchi, basta con l'illegalità, fatevi questi conti perché è finita. Quindi già loro stanno cominciando, sono molto impazienti, sicuramente hanno molte pressioni, sicuramente questa situazione non solo è un esempio pericoloso per tutti coloro che vogliono lottare, ma comunque è una cosa inaudita che un piccolo popolo ha bloccato gli americani, no? Quindi sono molto impazienti. Noi pensiamo che da qui al 30 possa succedere qualche cosa, noi pensiamo che il 30 nella manifestazione possa succedere qualcosa, e che comunque qualcosa a livello repressivo di grosso succederà, che sicuramente tutte le fotografie che ci hanno fatto in questi mesi di blocchi, tutti i video che ci hanno fatto, saranno montagne di denunce che arriveranno a decine e decine e centinaia di persone nel momento in cui faranno il contrattacco. Sicuramente la celere verrà più spesso, sicuramente useranno le maniere forti, perché penso che non ci saranno maniere dolci per convincere la gente a mollare. Quindi però si sa anche che chi sceglie queste maniere poi neanche lui sa se può controllare gli esiti, perché nel momento in cui lì ci sono le mamme, nel momento in cui con le mamme sono arrivati finalmente anche i mariti, nel momento in cui i ragazzi che hanno cominciato da soli hanno visto raggiungere tutti i loro genitori che hanno aderito al comitato e sono diventati attivisti pure i genitori, cioè a questo punto la reazione non è più quella di due antimilitaristi che tu gli spacchi la testa, a loro non li convinci del contrario, rimangono convinti, però ha lanciato un segnale agli altri: spacca la testa a una mamma, spacca la testa a un pensionato, a un vecchio che è lì al presidio, al blocco, e devi controllare quello che può succedere. Quindi ci sono in questo momento una fase in cui di studio, e nel frattempo si aspetta che ci sia un governo nazionale che si assuma una responsabilità specifica su come concludere questa cosa. Noi pensiamo che abbiamo momentaneamente bloccato il MUOS, può essere che questa lotta li possa indurre a cambiare, a portarsela in America, anche questo, a non farlo più, è molto difficile. Sono le formiche contro un gigante, no? Però le lotte si fanno anche per vincere, ma comunque anche se si perde l'importante è farle, no? Quindi questa è la storia, la morale. La mafia è tutto lì, tu non puoi lavorare se non hai l'aggancio mafioso, tu non puoi costruire se non compri le cose dai mafiosi, cioè, la mafia è il sistema, no? La politica vince perché c'è la mafia, e quindi in queste terre, già che qualcuno si ribella, per fine è bastato, lo conoscete tutti, cioè, in queste terre quando qualcuno si ribella rischia, no? Però quando a un certo punto si è tirato un po' la corda, qualcuno, c'è anche la dignità umana, secondo me in questo caso qualcuno ha scelto la dignità rispetto a un atteggiamento di viltà, no? E questo è il fatto nuovo. La mafia ancora continua ad ammazzare in Sicilia, fa meno eco, ma lì continua ad ammazzare ancora, tranquillamente. Non è, la mafia è fortissima ed è il sistema in Sicilia ancora, tant'è che sono arrivate anche delle minacce al suo governatore Crocetta, minacce di morte, che non vanno prese sotto banco, perché anche durante i missili a Comiso la lotta hanno ucciso la torre, cioè loro non hanno paura di fare anche questi passaggi nel momento in cui tutti gli altri si sono esauriti. Purtroppo è anche questo, quindi questo è per questo è importante fare sì che non sia una lotta solo di quella terra, perché se diventa una lotta di tutti si sgrava anche di questa responsabilità, di questo peso, chi è in prima fila oggi, no? Anche se lì non cerchiamo di non mollare. Allora, fino adesso si sono limitati a delle minacce verbali, no? Così, ancora non sono venuti fuori, però consiglio appunto, la ditta non lavora, quella che sta costruendo il MUOS, quindi già ha un problema anche lei direttamente di interessi che non sta potendo conseguire. Per adesso non è venuta fuori ancora, comunque in una maniera spudorata, per adesso è in una maniera verbale. C'era da dire anche, per esempio, questo non parla nessuno, che questo scollamento tra popolo, popolazione e classe politica ha anche un risvolto nelle elezioni, perché per esempio nelle ultime elezioni regionali in Sicilia ha votato il 47% dell'elettorato, no? E quindi c'è stato il massimo picco storico di astensione che mai in Italia si era verificato, oltre il 50% non ha votato, e mettendoci le bianche e le nulle siamo arrivati al 60% di persone che non hanno votato, no? Quindi questo è anche il quadro di come siano ormai i livelli di credibilità delle istituzioni, dei partiti, compreso anche il movimento di Beppe Grillo che in Sicilia ha vinto, ma di fronte a un grande boom dell'astensionismo lui ha vinto soltanto perché ha tolto voti alla destra e alla sinistra e se l'è preso lui, non ha assolutamente scalfito. Noi pure pensavamo che fosse un movimento che sostanzialmente eliminava i livelli di protesta e chi non voleva votare lo portava nelle istituzioni, invece no, la gente non ha creduto neanche al movimento di Grillo, non ha votato e lui solo, c'è stato un riequilibrio tra i votanti, quindi c'è una scollatura molto grossa nonostante il clientelismo, la mafia eccetera, quindi questa cosa indica che degli equilibri anche da questo punto di vista nel tempo si stanno spezzando e quindi stanno saltando tutta una serie di mediazioni, no? Sì, ma non ci sono comprati i voti, anche questo può essere vero, non ci sono comprati i voti, però può essere anche che la gente si è rotta le palle, in una terra dove non c'è più il lavoro, dove non lavora nessuno, dove i ragazzi non hanno più neanche la voglia di emigrare perché poi al nord non c'è il lavoro neanche e quindi tutto si sta bloccando, dove l'agricoltura è morta, perché tutto ciò che produci non vale niente, quindi non va neanche al mercato, neanche lo raccogli, perché non vale neanche la pena spendere per raccogliere, cioè, in cui stanno bruciando la speranza, naturalmente alla fine te ne fotti più dei partiti, no? Per cui il problema è perché non scoppia questa rivoluzione, questa ribellione, no? E allora sono state già delle avvisaglie, l'anno scorso il movimento dei Forconi, che non so se qua è arrivata l'eco, comunque è stato un movimento di contadini che aveva catalizzato un po' la protesta popolare con un mese a gennaio di blocchi molto forti in varie aree della Sicilia. È stato un movimento abbastanza interessante per quanto molto eterogeneo all'inizio, anche con componenti tipo Forza Nuova, di fascisti, che poi però sono stati sputtanati, sono stati buttati fuori. Un movimento che aveva dato delle speranze e che poi a un certo punto ha deciso, attraverso i suoi capetti, di trasformarsi in movimento elettorale, di presentarsi alle elezioni pensando di avere la situazione nelle mani, invece ha fatto un grande flop e si è autodistrutto, no? Perché ha fatto l'1, qualcosa in Sicilia pensando che invece erano fortissimi, no? Per cui però questa è stata una grande avvisaglia, perché significava che già i livelli di sopportazione si stavano rompendo, no? Ora Niscemi nel suo piccolo ha confermato che i livelli di sopportazione si stanno rompendo e quindi la gente guarda la propria condizione e gli dà più peso rispetto alle promesse che gli possono arrivare dagli altri, rispetto ai 50 euro che distribuisce il candidato, perché queste sono, le elezioni sono, anziché volantini, distribuiscono 50 euro a persona, no? E in alcuni casi 100 euro, in altri casi anche 10 euro, no? A un certo punto qualcuno ha detto vaffanculo e facciamo altre cose, no? Cioè, quindi sta accadendo tutto questo. E arrivederci alla prossima.